La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 6 secondi in diretta qui da Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. Per chi ci ascolta in diretta e in podcast, vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Anche la trasmissione di oggi viene da una vostra lettera, e vi ricordo il numero di telefono 800 24 00 24 per intervenire in diretta telefonandoci, e il 349 238 6666 per le opinioni. Mi scuso se nel corso di questa mezz'ora ci sarà qualche inconvenienza, perché ho la febbre alta e c'è un attacco di influenza terribile in corso. Mi scuso se la dizione sarà ancora più improbabile del solito nella mia lingua paperesca, ma purtroppo non sto molto bene, come tanti altri di voi in questo periodo. Vi dico subito di cosa parliamo, per consentirvi di provare a telefonare se volete. È in corso in questi giorni un'astensione dal lavoro che riguarda le diverse migliaia di componenti della magistratura onoraria nel nostro paese. Abbiamo 5.700 circa magistrati onorari nostro paese, un poco meno di 9.000 sono i magistrati togati. Questi 5.700 magistrati onorari sono quasi 1.800 giudici di pace, oltre 2.100 giudici onorari di tribunale, e poi ci sono 1.757 viceprocuratori onorari. In questi anni le diverse riforme della giustizia hanno potenziato tantissimo il ruolo dell'amministrazione della giustizia attribuita a questi magistrati onorari. È in corso l'attribuzione al governo di una delega che interviene nell'ordinamento su punti che li riguardano. Capiremo oggi perché loro si astengono perché trattati a tutti gli effetti da precari, malgrado che una percentuale elevatissima della giustizia civile sia oramai affidata a loro e non solo, e capiremo quali sono le loro ragioni, perché mi sembra giusto dare ascolto a chi in questi giorni, tra l'altro avendo indetto l'astensione in giorni in cui l'attenzione di tutti è ovviamente concentrata dagli tragici sviluppi della lotta al terrorismo, si finisce per poi non trovare ascolto. Allora, sia che voi apparteniate alla magistratura onoraria, sia che apparteniate a qualunque altra professione forense, chiamateci per dire se a vostro giudizio questa astensione è fondata. Adesso ne illustreremo le ragioni, oppure no. Prima di presentarvi gli ospiti, ai quali affidare per competenza insomma la descrizione del perché queste migliaia di magistrati onorari, ai quali chiediamo sempre di più, vengono pagati in realtà pochissimo e soprattutto non sono tutelati nel welfare, nei diritti e così via, una considerazione su quello che sta avvenendo oggi. Però, perché oggi è una giornata terribile, terribile secondo me più di quanto non si capisca, perché il fatto che un paese della NATO stamattina alle 9 e qualche minuto, cioè la Turchia, abbia abbattuto un cacciabombardiere russo, cosa che, come potete immaginare, ci fa tornare a prima della guerra fredda quasi, sostenendo che avesse violato per un chilometro il suo confine in Turchia, ha determinato in giro di poche ore una situazione incandescente e che veramente non ha precedenti storici. Io provo a descriverla così e a darvi un giudizio rapidissimo, e poi vi presento gli ospiti. Il primo controsenso è che la Turchia, che già al comitato politico militare della NATO, che si riunisce alle 5 quando noi finiamo a Bruxelles, aveva detto da un mese informalmente di considerare degli atti aggressivi e le azioni che i velivoli russi compivano vicino al confine per colpire tra l'altro i convogli che da ISIS vanno in Turchia, perché sappiamo che sulla Turchia grava il radicato e fondatissimo sospetto di avere attività filo ISIS, perché il vero nemico della Turchia sono soprattutto i curdi. Di considerare queste cose come delle azioni di minaccia ai quali un giorno o l'altro avrebbe risposto. Fatta questa premessa, e quindi dando una certa credibilità a quello che gli stessi militari turchi hanno detto, l'ordine ci è venuto dal capo del governo e dal capo dello Stato, dalle autorità civili politiche, L'affermazione turca secondo la quale il Sukhoi-24, il bombardiere, il cacciabombardiere russo, avrebbe varcato la frontiera turca aerea per un chilometro, rifletteteci un secondo, è una cosa che già fa acqua. Un Sukhoi-24 compie le sue missioni tra i 700 e i 900 km orari come velocità, quindi se fate una semplice divisione di che cosa sono quelle velocità medie per minuto, vedete che al minuto ci sono circa 12 km al minuto percorsi, il che significa che c'è un chilometro percorso ogni 4-5 secondi. 4-5 secondi, se lo sconfinamento è di un chilometro, è un sottomultiplo del tempo necessario per ingaggiarlo, inquadrarlo, tirarci un missile e buttarlo giù. Quindi già la pretesa fa acqua. Ma veniamo al punto e finisco subito. L'abbattimento con i due ufficiali russi che si sono iettati, sono cadute col paracadute pochi chilometri oltre il confine della Siria, sono stati sicuramente uno, forse due, eliminati da turcomanni. I turcomanni chi sono? Sono formazione anti-Assad, però pagata dai turchi contro i curdi. E vengono eliminati fisicamente, uccisi quindi da una formazione anti-Assad, mentre i velivoli russi ai turchi non piacciono perché sono con Assad. Terzo fatto che avviene, il Free Syrian Army, altra formazione anti-Assad, nel 2011 laica, dal 2012 in poi diventata usucapita dagli ex qaedisti di al-Nusra, sostenuti e finanziati da Arabia Saudita e dal Qatar, sostengono di avere colpito un elicottero russo distruggendolo utilizzando un missile Tau. I missili Tau l'Arabia Saudita li fornisce a queste formazioni salafite, sunnite, anti-Assad, direttamente prendendoli dagli Stati Uniti. Allora capite che nel giro di poche ore un membro della NATO abbatte un aereo russo sostenendo che ha sconfinato per un chilometro perché sta con Assad, mentre in realtà la Turchia sta contro quella parte di anti-Assad che non gli piace, cioè i curdi, e ne finanzia altri che invece gli piacciono e forse fa affari con l'ISIS. Nel frattempo vengono uccisi i piloti russi da degli agenti turchi oltre confine contro i curdi, pure loro, che combattono ISIS, e nel frattempo si distrugge un elicottero russo da parte di formazioni salafite, sunnite, anti-Assad, ma soprattutto anti-sciite, cioè anti-Teheran e anti-Russia, utilizzando un missile americano. Ecco, questo dà solo l'idea della follia in cui l'Occidente diviso con le sue politiche si mette, e perdonatemi, per me è amaro dirlo, e poi passo a presentarvi gli ospiti. Di fronte a questo Putin, che pure almeno sta simpatico, uno che elimina gli oppositori eccetera, ma però Putin in questo momento giganteggia di fronte alle divisioni, ai balbetti, a questi errori colossali compiuti dall'Occidente. Vedremo quali saranno gli sviluppi. La mia opinione vale per quel che vale. Allora, andiamo all'astensione dal lavoro di queste migliaia di magistrati onorari in questi giorni. E abbiamo con noi per parlare innanzitutto Sergio Nicchi. Sergio Nicchi è l'ascoltatore, nonché componente del direttivo nazionale dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace, nonché presidente della sezione regionale dell'Umbria, appunto dell'Associazione dei Giudici di Pace, che ci ha scritto, ci ha documentato il come e il qualmente, il perché fosse giusta questa astensione e perché dare voce a chi lo sta, a chi la sta animando in questi giorni. Nel frattempo esce una nota dell'ANSA, la Turchia informa che non esiterà a esercitare i propri diritti che scaturiscono dalle convenzioni internazionali per proteggere la sicurezza dei suoi cittadini e le sue frontiere, e nella lettera inviata da anche al Consiglio di Sicurezza della Segretaria Generale Ban Ki-moon dopo l'abbattimento del jet russo si fa chiaramente intendere quindi di essere disposti a fare la stessa cosa tutte le volte che sarà necessario. Che allegria questa coalizione anti-ISIS, eh? Allora, Sergio Nicchi, grazie di essere con noi, buon pomeriggio. Grazie a lei, dottor Giannino, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. No, Giannino e basta, mi scuso solo se purtroppo le notizie d'agenzia con quello che succede avranno la preeminenza. Allora, è con noi anche, per dare un quadro completo insomma, del mondo forense che gira intorno alla giustizia, il presidente di una delle Camere Penali Italiane, Beniamino Migliucci. Grazie di essere tornato con noi, presidente. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, Sergio Nicchi, spieghi un pochino a chi non ne sa nulla, oltre alle competenze basilari attribuite alle diverse componenti dei magistrati onorari, perché vi state astenendo? Darò, anche se forse non è simpatico, ma nella sua trasmissione so che si danno i numeri, perché la seguo spesso. Sì, quindi giusti ovviamente. mi permetterà di dare due piccoli dati per dare un'idea di chi è il giudice di pace, anche se immagino un po' si conosca. Allora, in Italia tra il 1 luglio 2013 e il 30 giugno 2014, cioè nell'arco di 12 mesi, sono stati iscritti circa 4 milioni di procedimenti civili. Di questi 4 milioni, circa 1 milione 300 mila sono stati iscritti di fronte al giudice di pace, il quale quindi tratta e definisce circa l'anno 1 milione 300 mila procedimenti civili. Il processo di fronte al giudice di pace ha una durata media di 9 mesi e la percentuale di impugnazione è di circa il 5%. Questi sono i quindi stiamo parlando di tempi rapidi rispetto a quelli della giustizia e soprattutto di impugnative bassissime, e certo, che significa anche questo, impegnare meno l'intero fronte della giustizia dopo. E di numeri molto elevati, perché un terzo dei procedimenti civili viene iscritto dinanzi al giudice di pace e viene trattato dinanzi al giudice di pace. Questo significa che però l'astensione di questi giorni provoca uno slittamento di molte, molte decine di migliaia di procedimenti. Certo, sappiamo che purtroppo, di questo ce ne vogliamo scusare con tutti, l'astensione va a toccare prima di tutto le parti del processo, che sono in realtà i primi immediati soggetti che subiscono un, tra virgolette, danno, perché questa cosa ritarderà la definizione delle loro vertenze. Però le assicuro che è stata fatta questa scelta non a cuor leggero, e dopo che per mesi è stato tentata un dialogo con il Ministero e dopo che soprattutto sono state disattese praticamente tutti gli impegni assunti dall'attuale Ministro della Giustizia. Allora, l'attuale Ministro della Giustizia e l'attuale Governo, in occasione di dibattiti anche corpo a corpo con l'Associazione Nazionale Magistrati, alla fine per esempio ha accolto la richiesta dei magistrati della protrazione in esercizio di funzione anche oltre i limiti del previdenziali. I magistrati la volevano ancora più lunga, il Governo ha fatto un passettino per accontentarli, eccetera eccetera, però insomma nei confronti dei magistrati togati il Governo è costretto a prestare orecchio tutti i mesi, per così dire. Voi che cos'è che chiedete che non avete? Allora, guardi, naturalmente non entro nel merito delle trattative tra magistrati ordinari e il governo, questo è ovvio. No, l'ho dato io il giudizio. Ci mancherebbe. Guardi, noi siamo circa 1900 attualmente in servizio, dal 1 gennaio saremo 1700 per limiti di età che alcuni di noi raggiungeranno. In questo momento siamo tutti in scadenza. I numeri che lei ha dato sono esclusivamente per i giudici di pace, sì, cioè non riguardano, non riguardano. Preciso che l'astensione riguarda unicamente i giudici di pace, non i giudici onorari di tribunali e i vice procuratori onorari. Vice procuratori onorari. Noi chiediamo semplicemente tre cose di fondo, anzi se ne è aggiunta una quarta dopo che la Commissione Giustizia ha deliberato sul disegno di legge delega. Cioè chiediamo che venga assicurata una continuità dell'incarico, così come adesso, con mandati quadriennali rinnovabili all'esito di una valutazione da parte del Consiglio Giudiziario CSM, fino a 70 anni, ai 70 anni di età, un'indennità fissa decorosa. Perché precisiamo, come venite pagati voi? Noi veniamo pagati a Cottimo. Sostanzialmente a Cottimo, perché è previsto 258 euro mensili lordi fissi, più nella sostanza 56 euro lordi per ogni sentenza, per ogni procedimento definito, e 38 euro per ogni udienza lordi, parliamo sempre di lordo, per ogni udienza che teniamo. Allora ripetiamo per dare l'idea chiara a chi è a casa, sì, a chi abbiamo affidato una percentuale elevatissima del contenzioso civile, lo Stato, oltre a un incarico solo a tempo, garantisce 258 euro lordi al mese, sì, più a ogni sentenza 55 euro lordi, sì, più 30 rotti euro lordi per l'udienza. Ecco, cioè, le cifre sono queste, tutte lorde, quindi elevateci le tasse eccetera eccetera. Questa è la condizione di coloro ai quali la giustizia dice voi avrete una percentuale sempre maggiore ovviamente del contenzioso di cui occuparvi. Okay. Perché tra l'altro nella legge delega si prevede un aumento di competenza in materia civile, esattamente, peraltro, quindi Non solo, rispetto a questo lordo, nella legge, nell'attuale legge di nell'attuale legge K di da ridere, sì. È prevista un taglio, il Ministero della Giustizia prevede un taglio di, mi pare, 6 milioni di euro da ricavare dal taglio delle indennità pagate al giudice di pace. Quindi è chiaro, verranno tagliate. Adesso io non so che cosa intendono per il taglio delle indennità, cioè se la parte fissa possono andare a incidere. No, beh, parlando di indennità, si potrebbe anche, intendersi anche quella delle sentenze. Esatto, delle... esattamente. E non solo, da quest'anno noi abbiamo ottenuto la previdenza, cioè gli avvocati iscritti all'albo e quindi automaticamente iscritti alla cassa forense che svolgono questa attività dovranno versare sulle indennità così percepite a fine anno i contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati. Quindi sull'indennità originariamente prevista come all'ordo IRPEF, in realtà noi prima verseremo i contributi. Prima versate i contributi. Per cui sostanzialmente ci hanno detto: volevate la previdenza, ve la diamo. No, no, ci tengo a che queste cifre siano chiare, perché non stiamo parlando, per così dire, tante volte mi è capitato di parlare della progressione automatica, no, di carriera, no, per l'anzianità dei magistrati togati, no, e delle relative retribuzioni. Qui stiamo parlando, perdoni, io adesso non voglio mancare di rispetto ai giudici pace, di miserie, cioè neanche di mance. Questa è la condizione attuale garantita nel nostro ordinamento ai giudici di pace. Mance, perché di questo si tratta, sui quali l'imposizione contributiva eccetera eccetera è in ulteriore crescita, come avete sentito. Ecco, questo è il quadro per cui si arriva all'astensione. A me sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, però tra un minuto sentiamo anche il presidente dell'Unione Camera Penale Italiani per vedere qual è il giudizio sull'importanza e anche sulle richieste avanzate dai giudici di pace che giustificano l'astensione di questi giorni. Torniamo tra un minuto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 6.48, primi 14 secondi, stiamo parlando, tentando di spiegarvi le ragioni dell'astensione in questi giorni, dal 23 al 30 novembre, dei giudici di pace, che sono una delle tre componenti della magistratura onoraria del nostro paese. Stiamo parlando, la magistratura onoraria sono circa 5.700 magistrati onorari, i giudici di pace sono poco meno di 1.800, abbiamo sentito che il loro è un rapporto a tempo con lo Stato, non stabilizzato ancora, e che lo Stato riconosce loro un'indennità di 238 euro poco, lorde al mese, poco più di 50 euro a settimana, poco più di 30 euro lordi per udienza. Ecco, allora sentiamo il presidente dell'Unione Camere Penali Beniamino Migliucci. Dal vostro punto di vista, presidente, è un'astensione sbagliata? Sono richieste giuste? Come si fa a chiedere sempre di più a magistrati onorari trattandoli così? No, mi pare che abbiano ragione, nel senso che credo anche la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i magistrati onorari, quando svolgono le stesse attività dei magistrati di carriera e hanno gli stessi doveri, dovrebbero evidentemente avere anche gli stessi diritti. Questo è il primo presupposto. Ma qui stiamo parlando di un oceano di differenza nei trattamenti. La seconda questione riguarda la tentazione che è diventata realtà da parte dello Stato di servirsi dei giudici di pace per risolvere questioni che sono importanti per i cittadini, perché i giudici di pace devono trattare anche questioni di carattere penale, reati come lesioni personali punibili a querela, danneggiamenti, insomma una serie di reati che sono vicini al cittadino e che colpiscono spesso l'attenzione dei cittadini e i diritti dei cittadini, e che quindi si rivolgono spesso al giudice di pace non solo per la materia civile. Facciamo un esempio proprio che riguarda le cose di cui stiamo parlando tumultuosamente in questi giorni. È il giudice di pace che deve confermare o meno le decisioni sull'espulsione degli immigrati, certo, pericolosi, tra l'altro. Certo, anche appunto sui provvedimenti del questore. Ma il tema è questo, è che da anni la magistratura professionale vede con diffidenza l'ingresso nella magistratura, per esempio, degli avvocati, perché questo consente di rimanere una corporazione. Considerano degli usurpatori, in parole povere. Sì, allora nel tempo si è creata questa forma di sfruttamento, tra virgolette, di precariato, per cui ci si rivolge al giudice di pace perché decida su un sacco di questioni di natura civile e penale, diciamo così, svolgendo per i giudici professionali delle questioni di minore importanza che invece interessano molto ai cittadini, e vengono trattati come magistrati di serie B o di serie C. E tutto questo perché c'è l'idea di un disegno di legge che prevederà la riforma organica della magistratura onoraria, che tende sostanzialmente a creare l'ufficio del processo, o meglio del giudice, dove i magistrati onorari diventeranno coloro i quali dovranno studiare per il giudice le questioni del giudice, con competenze diverse evidentemente dai magistrati professionali, ma con doveri e oneri comunque importanti. Quindi io credo che la protesta che è stata fatta, anche credo anche comunque con molto garbo e rappresentando una situazione di fatto che esiste, sia soprattutto il portare all'attenzione dei temi della giustizia un tema che è fondamentale, cioè la magistratura si deve occupare, si occupa soltanto delle questioni importanti, le altre questioni sono meno importanti, però vengono affidate a dei giudici che poi sono limitati a tempo, hanno più oneri che onori e spesso le doglianze e le lamentele dei cittadini si rivolgono anche nei loro confronti. Quindi io credo che il tema di fondo sia capire quale giustizia del futuro vogliamo e se è giusto che la magistratura professionale rimanga quella corporazione chiusa, invece non si debba aprire anche all'apporto di avvocati che hanno nel tempo maturato esperienze, che possono anche partecipare alla gestione della giustizia, così come adesso fanno i giudici di pace svolgendo le loro funzioni. Da liberale non deve convincere me, però l'autotutela nei confronti della politica della magistratura togata è fortissima. Voi stessi avete annunciato anche manifestazioni di astensione che vi riguardano a dicembre, oggi ho visto. Sì, noi dal 30 di novembre al 4 di dicembre siamo in astensione per delle questioni che riguardano evidentemente i cittadini, contro le riforme del codice penale e del codice di procedura penale che sono state introdotte intanto alla Camera, per esempio sulla partecipazione a distanza dei processi. Ci sono delle norme che faranno sì che tutti gli imputati detenuti per qualsiasi reato dovranno celebrare il processo stando in carcere, con questo violando i principi di immediatezza, di oralità, un processo virtuale che smaterializza l'imputato e che fa sì che l'imputato non possa vedere, non possa stare a contatto con il suo giudice vicino al suo avvocato. È che in buona sostanza poi questa violazione di diritto avviene per motivi di risparmio logistico, perché poi questa sì, è la cosa più inaccettabile. Anche di risparmio, che poi esatto. È tutto da vedere, esatto. Poi tutto da vedere se ci sarà questo risparmio, ma violando anche, esatto, secondo noi, l'articolo 111 della Costituzione. E poi ancora si vogliono comprimere, si vogliono anche limitare le impugnazioni, dimenticando che l'appello così com'è costituisce una garanzia per il 40% delle sentenze di primo grado vengono riformate, insomma, anche tante altre questioni. Tante altre questioni sulle quali ovviamente poi il dibattito pubblico è un po' disattento. Io tornerò a chiedere al Presidente dell'Unione Camera Penale Italiana presto di intervenire a proposito di un provvedimento che è all'esame del Parlamento, che è già stato approvato in un ramo e all'altro, nella disattenzione generale, a proposito del regime di sequestro e commissariamento di aziende per reati antimafia, ma vi vengono inglobati tutti i reati contro la pubblica amministrazione, e quindi significa che in fase di indagine in audita altra parte, se un'azienda viene concussa, cioè gli viene richiesto, se ha vinto una gara, di versare tangenti a un funzionario pubblico o all'amministratore pubblico, un PM potrà sequestrarla e quindi l'azienda diventa cornuta e mazziata. Ma ne riparleremo, perché è un provvedimento, secondo me, di una gravità assoluta e non ne stiamo parlando. Intanto io ringrazio Sergio Nicchi e abbraccio attraverso lui tutti i giudici di pace per l'astensione che stanno in questi giorni svolgendo, perché avete sentito in che condizioni li tiene lo Stato. È una cosa, secondo me, incivile, inappropriata, ingiusta. Grazie a lui e grazie a Beniamino Migliucci. Continuate con Radio 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 con me, Alessandro Milan. Attenti a noi due.